benvenuti a questa nuova puntata di Soul Time. Sarà una puntata in cui andrò un po' a ruota libera tra i dischi che trovo qua e là sullo scaffale, tutti, come dice il sottotitolo della trasmissione Soul Time, Northern Soul e tutto quello che gli sta attorno. Direi di iniziare subito da una voce storica che non ha certamente bisogno di presentazioni. Questo è un pezzo di Sua Maestà James Brown, il pezzo del 1968 stampato su etichetta King, si intitola Why Did You Take Your Love Away From Me? Lui è James Brown. Questo era James Brown, sicuramente uno dei pezzi non troppo conosciuti di James Brown, ma che sicuramente meritano tantissimo. Quindi proseguiamo con la selezione. Con il prossimo pezzo voglio tornare alle atmosfere più propriamente Northern Soul, con un altro grande classico. Questo è per chi ascolta abitualmente il Northern Soul, e anche questo pezzo, un po' come James Brown per la sua voce, non ha bisogno di grandissime presentazioni. Questo è Seven Days Too Long e lui è Chuck Wood. First time I called you, girl, they say you wasn't home. And the second time I tried it, they say you want to be left alone. We had a lover's quarrel, yes we did, like all lovers do. I'm ready to make up. It's all up to you now, 'cause 7 days was too long. piano. It's written on your face. Questo era Chuck Wood. Proseguirei con la traccia successiva, che è di Ardyn Taylor, che si intitola There's a Ghost in My House. Rimaniamo quindi sempre all'interno delle atmosfere all nighter. Questo è Dean Taylor, There's a Ghost in My House. Questo era Dean Taylor. Con il prossimo pezzo vorrei aprire un piccolo focus su una grandissima, grandissima voce statunitense. La voce è quella di Wendy Renee, all'anagrafe Mary Frierson, che era una delle voci di punta della Stax a metà degli anni 60, che è scomparsa un paio di anni fa, nel 2014. Wendy Renee era una delle pochissime autrici all'epoca dei brani che interpretava, il cui poi tra l'altro nome d'arte fu suggerito da un certo Otis Redding, ed ebbe come backing band durante la sua carriera gruppi come Booker T e The MGs, e incise dei grandissimi successi. Dopo il divorzio come dipendente della Stax Records, la cantante si ritirò a vita privata, abbandonando per decenni l'attività musicale, che riprese soltanto nel 2010, esibendosi per un breve set live a New Orleans. In tempi recenti poi, tra l'altro, la sua musica è tornata sotto i riflettori grazie a star dell'hip hop e dell'R&B come i Wu-Tang Clan, che campionarono la bellissima Tears After Louders Come Tears, nel prezzo appunto di Wu-Tang Clan Tears, e Alicia Keys, che inserì un sample di Where Do We Go From Here all'interno di un suo album. Quindi direi di andarci ad ascoltare Wendy René e questa bellissima Barbecue. Visto che l'abbiamo citato nella breve presentazione, io direi di andarci a ascoltare After Laughter Come Tears, diventata appunto famosa, risalita agli albori della cronaca musicale dopo il campionamento dei Wu-Tang Clan nel pezzo Tears. Ci ascoltiamo un altro bellissimo pezzo di Wendy René, After Laughter Come Tears. After. Mentre ascoltavo questo pezzo, nel frattempo l'occhio mi è cascato su un altro gran pezzo. Qui torniamo nelle atmosfere più tipiche All Nighter. Questo è un pezzo di Dobby Gray e si intitola Out on the Floor. Dobby Gray. Era Dobby Gray. Proseguiamo con un altro gran pezzo. Questo è di Tammy Lynn, una cantante nata nel 1942 nei pressi di New Orleans, che ha inciso tra le altre etichette anche per Atlantic Records e Mojo Records. Ci andiamo ad ascoltare questo pezzo che si intitola I'm Gonna Run Away From You. Tammy Lynn. With some questa era Tammy Lynn. Quindi proseguirei con un altro pezzo, ci andiamo ad ascoltare, anzi direi di aprire la nostra rubrichetta della musica che mi ascolto nelle cuffie mentre vado al lavoro. Questo è un pezzo classico della storia della musica americana ed è stato interpretato da tantissimi gruppi. Nello specifico, per questa rubrichetta ci andiamo ad ascoltare la versione degli Untouchables. Il pezzo è I Spy for the FBI, un pezzo che ironizza appunto sulle attività poco simpatiche dell'FBI negli Stati Uniti. Questi sono gli Untouchables. Una gran sezione ritmica per questo pezzo. Quindi è già pronto, lo sparo subito senza troppi indugi. Ci andiamo ad ascoltare questo gran gruppo che prende il nome di The Sharpies e il pezzo si intitola Do the 45. Yeah. Dude 45 degli Sharpies, quando si suol dire qui puoi sentire il funk. Quindi direi di andare avanti e lanciare la nostra rubrica annunciata dal saggissimo Toto Cutugno. Eccoci qua, allora questa settimana la nostra rubrica, in realtà come dice il nostro Toto Cutugno, parla di l'America sta qua, cioè pezzi statunitensi o comunque nel nostro caso più specifico il soul che veniva interpretato e o coverizzato da cantanti o gruppi italiani. In questo caso facciamo una piccola eccezione, cioè ci andiamo ad ascoltare un gruppo che sono i Punti Cardinali, che hanno fatto questa cover di Little Green Bag, che è un singolo del cantante olandese George Becker. Quindi ci spostiamo come sonorità olandesi, quindi con George Becker, che incise questo pezzo con il suo gruppo George Becker Selection. Lo incise a proprie spese, è diventato famoso poi negli ultimi anni per essere stata la sigla, o meglio la canzone dei titoli di testa di un film cult come Le Iene di Quentin Tarantino. Questa è la versione che fecero i Punti Cardinali negli anni 70 in Italia, che si intitola La Borsetta Verde. Questo pezzo è precisamente del 1970. Ci andiamo a ascoltare i Punti Cardinali. Risparmiare dovrai, tu lo sai che da te vuole sempre di più, niente cinema ormai, niente balli e caffè. Thank you. ascoltati anche oggi i nostri 4-5 minuti di musica in lingua italiana grazie ai punti cardinali. Quindi il prossimo pezzo che ho già preparato ce l'abbiamo qui, il tempo di poggiarlo sul giradischi che ci andiamo ad ascoltare è un pezzo che si intitola Running From My Life e lui è Roscoe Shelton, che abbiamo già avuto modo di ascoltare altre volte, quindi un'altra voce che all'interno di queste mura è sicuramente molto familiare. Roscoe Shelton con Running From My Life. My baby kissed me early this morning, then she walked right out of my door. I got a real strange, funny feeling that she won't be back no more. And I believe, you know, my baby got a hold on me. I believe, you know, my baby got a hold on me. Don't you see? I keep on running, but I got nowhere to hide. I got to keep on running, you know I'm running for my life. And I believe, you know my baby got a hold on me. I believe, you know my baby got a hold. Roscoe Shelton con Running For My Life. Siamo arrivati all'ultimo pezzo di questa puntata. Vi lascio con un pezzo di Gwen Davis, l'ho estrapolato da una bella compilation che si chiama Soul Sisters Volume 1. Questa è Gwen Davis e il pezzo si intitola My Man Don't Think I Know. Alla prossima puntata vi saluto con Gwen Davis.